Capitolo 165. La pazzia di Aiace. Quando Teti decise di assegnare le armi di Achille al più valoroso dei greci superstiti, soltanto Aiace e Odisseo, che a spalla avevano coraggiosamente difeso il cadavere dell'eroe, osarono farsi avanti. Alcuni dicono che Agamennone, per via di un sordo rancore che nutriva contro tutta la casa di Eaco, non tenne conto delle pretese di Aiace e divise le armi tra Menelao e Odisseo, di cui aveva grandissima stima. Altri invece dicono che Agamennone evitò l'ingrato compito di prendere una decisione rimettendo il caso a un'assemblea di capi greci che votarono segretamente, oppure che costrinse i prigionieri troiani a dichiarare quale dei due pretendenti avesse fatto più grande strage tra loro. Ma in verità, mentre Aiace e Odisseo vantavano a gran voce le loro imprese per assicurarsi il premio, Nestore consigliò ad Agamennone di mandare nottetempo spie presso le mura di Troia per ascoltare gli spassionati giudizi del nemico in proposito. Le spie udirono infatti le chiacchiere di alcune fanciulle e quando una di esse lodò Aiace, che si era portato via il corpo di Achille sulle spalle sotto una pioggia di dardi, un'altra, per ispirazione di Atena, la interruppe dicendo: «Sciocchezze! Persino una donnicciola avrebbe saputo fare altrettanto, ma se si fosse trovata un'arma tra le mani, allora sì, le sarebbe mancato il coraggio di usarla. Odisseo, e non Aiace, sopportò il peso del nostro attacco». Agamennone dunque consegnò le armi a Odisseo. Né Agamennone né Menelao naturalmente avrebbero osato insultare Aiace a quel modo se Achille fosse stato ancora in vita, poiché Achille teneva in gran conto il suo valoroso cugino. Fu Zeus stesso che alimentò la contesa. Accecato dall'ira, Aiace decise di vendicarsi la sera stessa. Atena tuttavia lo colpì con una crisi di improvvisa pazzia ed egli si aggirò furibondo con la spada in mano tra le mandrie e i greggi che erano stati razziati nelle fattorie dei troiani. Compiuto un immane macello, Aiace legò assieme gli animali superstiti, li spinse verso l'accampamento e là ricominciò a sgozzarli. Scelse due arieti dalle zampe bianche, tagliò all'uno la testa e la lingua, scambiandolo per Agamennone o per Menelao, e legò l'altro a una colonna e lo flagellò con le redini di un cavallo, chiamandolo Odisseo e urlando ingiurie di ogni sorta. Recuperato finalmente il senno, egli cadde in una cupa disperazione. Mandò a chiamare Eurisace, il figlio che aveva avuto da Tecmessa, e gli donò il grande settuplice scudo dal quale aveva preso il nome. «Il resto delle mie armi deve essere sepolto con me quando morirò», disse. Il fratellastro di Aiace, Teucro, figlio della sorella prigioniera di Priamo Esione, si trovava in Misia in quel periodo, ma Aiace gli lasciò un messaggio affidandogli la tutela di Eurisace, che doveva poi essere condotto presso i suoi nonni Telamone ed Eribea a Salamina. Poi, dicendo a Tecmessa che per sfuggire all'ira di Atena egli doveva bagnarsi nel mare e trovare un appezzamento di terreno incolto per seppellirvi la spada dove nessuno potesse trovarla, uscì, deciso a uccidersi. Piantò solidamente in terra la spada, quella spada che Ettore gli aveva data in cambio del purpureo Balteo, e dopo aver invocato Zeus perché dicesse a Teucro dove avrebbe potuto trovare il suo corpo, ed Ermete perché guidasse la sua ombra ai prati di Asfodeli e le Erinni perché lo vendicassero, si gettò sulla lama. La spada, ribellandosi a quell'ingrato compito, si ripiegò all'indietro a guisa d'arco e si sarebbe rotta prima che Aiace riuscisse a uccidersi se egli non ne avesse guidata la punta verso la sua vulnerabile ascella. Frattanto Teucro, ritornato dalla Misia, per poco non fu messo a morte dai greci indignati per l'ecatombe del loro bestiame. Calcante, che non era stato avvertito del suicidio dalla sua arte profetica, prese Teucro in disparte e gli consigliò di rinchiudere Aiace nella sua tenda, poiché Atena, irritata, l'aveva fatto impazzire. Podalirio, figlio di Asclepio, convenne che il consiglio era ottimo. Egli veniva infatti considerato ottimo medico, così come suo fratello Macaone veniva considerato ottimo chirurgo, e per il primo aveva diagnosticato la pazzia di Aiace, osservando il cupo baluginio dei suoi occhi. Ma Teucro si limitò a scrollare il capo, poiché Zeus gli aveva già comunicato la triste sorte del fratello e in compagnia di Tecmessa si mise alla ricerca del cadavere. Trovarono Aiace immerso in una pozza di sangue e Teucro fu sopraffatto dalla disperazione. Come sarebbe potuto ritornare a Salamina dal padre suo Telamone? Mentre si strappava i capelli incapace di muovere un passo, Menelao lo raggiunse e gli proibì di seppellire Aiace, che doveva essere lasciato in pasto agli avidi nibbi e ai pietosi avvoltoi. Teucro lo scacciò bruscamente, poi, affidato a Eurisace, in veste di supplice, il compito di offrire alla salma ciocche dei propri capelli e di quelli di Teucro e di Tecmessa, si recò da Agamennone, schiumando per la rabbia. Odisseo intervenne nella disputa che seguì e non soltanto pregò Agamennone di concedere ad Aiace i riti funebri, ma si offrì di aiutare Teucro a organizzarli. Teucro declinò questa proposta, pur ringraziando Odisseo per la sua cortesia. Infine Agamennone, per consiglio di Calcante, concesse che Aiace fosse sepolto in una bara da suicidi presso il capo Oreteo, anziché bruciato sul rogo come se fosse caduto con onore in battaglia. Alcuni ritengono che il litigio tra Aiace e Odisseo fosse sorto per il possesso del palladio poco dopo la caduta di Troia. Altri negano che Aiace si sia ucciso e dicono che, poiché egli era invulnerabile dal ferro della spada, i troiani lo colpirono con palle di creta consigliati a far ciò da un oracolo, ma può darsi che si trattasse di un altro Aiace. In seguito, quando Odisseo visitò i campi di Asfodeli, Aiace fu l'unica ombra che rimase in disparte, disdegnando le spiegazioni di Odisseo, e cioè che Zeus era l'unico responsabile di quella disgraziata faccenda. Odisseo, molto saggiamente, aveva nel frattempo ceduto la famosa armatura a Neottolemo, figlio di Achille, benché gli eolici, che più tardi si stabilirono a Troia, sostengano che egli la perdette in un naufragio mentre ritornava a Troia e che le onde, per ordine di Teti, la depositarono presso la tomba di Aiace al capo Oreteo. Durante il regno dell'imperatore Adriano, una mareggiata scoperchiò la tomba e si vide che le ossa di Aiace erano gigantesche, le rotule del ginocchio grandi come quei dischi che i ragazzi usano per esercitarsi nel pentatron. Per ordine dell'imperatore furono sepolte di nuovo. I salamini dicono che un nuovo fiore apparve sulla loro isola quando Aiace morì, bianco, picchiettato di rosso, più piccolo di un giglio e, a somiglianza del giacinto, con sopra le lettere Ai Ai. Ma generalmente si crede che quel fiore sbocciò dal sangue di Aiace là dove egli cadde e che le lettere possono anche significare Aias Aiacides, Aiace le acide. Nella piazza del mercato di Salamina sorge il santuario di Aiace con un simulacro di ebano e non lontano dal porto si mostra una collinetta sulla quale Telamone sedette per guardare le navi che si allontanavano verso l'Aulide portandosi via i suoi figli. Teucro in seguito ritornò a Salamina, ma Telamone lo accusò di fratricidio colposo, poiché non aveva appoggiato la richiesta di Aiace durante la disputa per le armi di Achille. Vedendosi negato l'ingresso in città, Teucro perorò la sua causa dal mare, mentre i giudici lo ascoltavano schierati sulla spiaggia. Anche Telamone era stato costretto a fare la stessa cosa quando suo padre Eaco l'aveva accusato dell'uccisione del fratello Poco. Ma come Telamone fu condannato e bandito, così pure accadde a Teucro, accusato di non aver riportato in patria né le ossa di Aiace, né Tecmessa, né Eurisace, il che provava la sua negligenza. Egli salpò dunque per Cipro, dove col favore di Apollo e col permesso di re Belo il Sidonio fondò un'altra città di Salamina. Gli Ateniesi onorano Aiace come uno dei loro eroi eponimi e sostengono che Fileo, il figlio di Eurisace, divenne cittadino ateniese e offrì ad Atena la sovranità su Salamina. Nel mito di Aiace gli elementi mitologici sono pochi. Una raffigurazione mostrava forse Aiace che legava l'ariete a una colonna, non perché fosse impazzito, ma perché quella forma di sacrificio era stata introdotta in Cipro da Creta. Il giacinto di Omero è il Hyacinthos Grapta, che alla base dei petali presenta disegnini simili alle antiche lettere greche Ai. Era pure sacro al cretese Giacinto. le ossa di Aiace, che furono sepolte la seconda volta per ordine di Adriano, appartenevano probabilmente, come quelle di Teseo, a un eroe molto più antico. Pisistrato sfruttò la leggenda dei supposti rapporti di Aiace con l'Attica per vantare diritti di sovranità sull'isola di Salamina, che in precedenza dipendeva da Megara, e si dice che gli abbia appoggiato le sue pretese facendo interpolare dei versi spuri nel canone omerico. Aia è una forma arcaica di Gaia, terra, e Aias, Aiace, significava probabilmente contadino. Uccidere un uomo con palle di creta anziché con la spada era un metodo primitivo per evitare di macchiarsi di sangue. Questo secondo assassinio di Aiace doveva dunque essere attribuito ai suoi concittadini e non ai nemici troiani. Che Odisseo e Aiace si disputassero il possesso del Palladio è un particolare storicamente importante, ma Sofocle ha confuso sbadatamente il piccolo Aiace col grande Aiace.